ricciolina sul monte Grappa, ci sta una ricciolina sul monte Grappa, ci sta una ricciolina che fa l'amore col bersaglier. Oh ricciolina, tu sei la mia amorosa, oh ricciolina, tu sei la mia amorosa, oh ricciolina, tu sei la mia amorosa, sei l'amorosa del bersaglier. Bersagliere, cammina un po' più piano, oh bersagliere, cammina un po' più piano, oh bersagliere, cammina un po' più piano, se no la mamma ci sentirà, se no la mamma ci sentirà. Se la ci sente, non ci fa andare in camera, se la ci sente, non ci fa andare in camera, se la ci sente, non ci fa andare in camera, così l'amore non si può far. Il bersagliere la bacia e poi va via, il bersagliere la bacia e poi va via, il bersagliere la bacia e poi va via, e quando torna la sposerà. La ricciolina la piange con ragione, la ricciolina la piange con ragione, la ricciolina la piange con ragione, per la passione del bersaglier, per la passione del bersaglier. A quattro mesi la luna va crescendo, a quattro mesi la luna va crescendo, a quattro mesi la luna va crescendo, e per l'amore di un bersaglier. A sette mesi è nato un bel bambino, a sette mesi è nato un bel bambino, a sette mesi è nato un bel bambino con la divisa da bersaglier. A cinque anni andava in bicicletta, a cinque anni andava in bicicletta, a cinque anni andava in bicicletta con la carriola del suo papà. E a vent'anni era sottotenente, e a vent'anni era sottotenente, e a vent'anni era sottotenente nel reggimento del suo papà.